Steve a mis au point différents réservoirs. Statement, any minute from now. 1-0 up. E ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Bentornati alla nostra finestra settimanale sulla cultura internazionale. Tira una brutta aria, care ascoltatrici e cari ascoltatori, una brutta aria non soltanto nell'economia e nella finanza, ma anche nel mondo della cultura e delle idee. Un'aria di intolleranza, di crociata, di diffidenza verso chi la pensa diversamente. La Chiesa toglie la scomunica ai tradizionalisti di Lefebvre, ma non ai divorziati e ai familiari di Eluana. E gli atei militanti insistono nella loro campagna contro la Chiesa a colpi di slogan sugli autobus genovesi. Forse sarebbe ora di riconoscere che apparteniamo tutti, atei, agnostici e cattolici, credenti, non credenti e diversamente credenti, alla stessa civiltà laica e liberal-democratica e imparare a non insultarci e scomunicarci a vicenda. Di radici della nostra civiltà, ma anche di insulti celebri, parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile. Ma intanto ascoltiamo cosa prevede il nostro sommario. Stati Uniti. Per il filosofo Charles Taylor, cultura laica e cristianesimo hanno una radice comune, l'impegno per i diritti civili. Germania. Günther Grass critica la riunificazione tedesca, ma la Faz gli dice di smetterla. Francia. Da Chateaubriand a Proust. Storie di duelli letterari. Un libro raccoglie gli insulti celebri tra i grandi della letteratura francese. Giappone. Un filantropo giapponese propone l'abolizione del termine lebbroso. Stati Uniti. I pannelli solari vanno a ruba. Mentre i furti aumentano, gli ambientalisti esultano per lo sviluppo delle energie alternative. C'eravamo tanto odiati. Da cosa nasce l'odio tra gli scrittori? Pourquoi tant de haine? Si domanda Jérôme Garcin sull'ultimo numero del Nouvel Observateur, il settimanale francese. Lo spunto è offerto da un libro di Anne Bouquet e Etienne Kern, pubblicato da Flammarion, e dedicato agli insulti che si scambiavano gli scrittori francesi nell'Ottocento. Nell'articolo vengono definiti vacherie, cioè forme, insomma, di rivalità che sboccata, che arrivava all'ingiuria. E ci sono nel libro alcuni casi celebri, per esempio quello tra alcuni litigi tra uomini famosi della letteratura francese, come per esempio quello tra Victor Hugo e Sainte-Beuve. Beh, in questo caso ovviamente c'era un motivo molto serio, perché Sainte-Beuve era l'amante di Adèle Hugo, la moglie trascurata di Victor. E naturalmente questo aveva generato un certo risentimento tra i due, per cui uno dava all'altro del ciclope, e mentre invece Victor Hugo replicava chiamandolo Saint-Bav, cioè Sana Bava invece che Saint-Beuve, deformando il suo cognome. Ma c'è per esempio il famoso insulto di Jules Renard su Georges Sand, che l'aveva definita la vache bretonne della letteratura, la vacca bretone della letteratura, o Alfred de Vigny, che sempre il povero Sainte-Beuve evidentemente era bersagliato un po' da tutti, essendo poi un critico letterario, quindi richiamava molti odi, che l'aveva definito un testardo che avvelena le acque in cui nuota. E ancora Léon Blois, che a proposito di Maupassant diceva la sua perfetta stupidità di persona di gaudente si manifesta nei suoi occhi da cane che piscia. Quindi, insomma, espressioni veramente pesanti. O Barbet d'Orvilly, che a proposito di Mérimée diceva ha le gambe del pavone ma non ha la coda, e poi culmina nel famosa battuta di Aragon dopo la sepoltura di Anatole France, in cui dice: avete già schiaffeggiato un morto? Ecco, ma da cosa nasce l'odio degli scrittori l'uno verso l'altro? Soprattutto da gelosie reciproche, oppure ci sono altri moventi, magari di natura politica o differenze religiose o gelosie anche sentimentali, come abbiamo visto? Ecco, questo è un po', diciamo, il tema che vogliamo affrontare con il nostro ospite, che salutiamo, Giordano Bruno Guerri, alla finestra sul cortile. Salve. Grazie di aver accettato il nostro invito. Giordano Bruno Guerri è scrittore, giornalista e storico, autore di biografie di protagonisti della storia letteraria del Novecento, come Malaparte, D'Annunzio e ora anche di Filippo Tommaso Marinetti, che è appena uscito da Mondadori. C'è anche in Italia una tradizione dell'insulto, della lite, della provocazione, no? Ci sono degli esempi di scambi di insulti particolarmente fantasiosi nella sua biografia di Marinetti, per esempio? In quella di Marinetti certamente uno scambio di insulti frenetico con D'Annunzio, il quale definì Marinetti una nullità tonante, ricevendone in cambio la definizione di Monte Carlo di tutte le letterature. Fantastico. Al che D'Annunzio replicò con un insulto decisamente futurista e bellissimo: cretino fosforescente. Ma è magnifica questa. Vorrei sentirmelo dire anch'io. Sì? Mi piacerebbe essere fosforescente, che qualcuno me lo dicesse, insomma, perché ti... non associato la parola cretino, un'intelligenza fosforescente non sarebbe male. Ecco, certo, però insomma è un insulto talmente bello che uno se lo può appendere come una medaglia, poi detto da D'Annunzio, no? Sì, infatti D'Annunzio riservava i suoi insulti solo alle persone che temeva, certo, che potevano ingombrarlo, e quindi era un onore, appunto. E quindi... Del resto Marinetti lo definì anche il distillatore di veleni della nostra letteratura. Ma io ricordo di D'Annunzio altri insulti celebri che lui aveva rivolto ad altri protagonisti, anche per esempio della vita politica, no? dell'epoca. Sì, certamente a tutti i protagonisti della vita politica, ma anche ad altri letterati. D'Annunzio scrisse un saggio su Carducci, maestro avverso definito, ma i litigi maggiori avvennero con Pascoli. Sì. Pascoli pure si inventò un insulto complesso e molto fantasioso per definire D'Annunzio, cioè cronolitografico incipriato, che non è male. Stavolta D'Annunzio rispose con una lettera pesantissima, dicendogli: come è noto, tu hai il gusto rispettabile di rimanere sulla ciambella, di centellinare il fiasco, di curare la stitichezza del tuo cagnolino. Beh, eccezionale. Parliamo di due giganti. Davvero, davvero, bisognerebbe fare un'antologia di questi insulti. Ma... A proposito di giganti e di nani, almeno come altezza, è famosa la definizione di Longanesi, credo di Malaparte, è definito carciofino sott'odio. Ah, certo, beh, questa l'avevo già sentita, ma è sempre molto bella. Mentre Longanesi disse di Malaparte questa famosa frase: ai matrimoni vuole essere la sposa, ai funerali vuole essere il morto. Bellissimo. Ecco, oggi Giordano Bruno si insulta di meno e comunque forse con meno eleganza, no? C'è un impoverimento anche nelle ingiurie, cioè l'impoverimento linguistico si riflette anche così in una mancanza di immaginazione negli insulti. Sì, benché l'odio fra letterati non sia venuto meno. Io certo, sto leggendo proprio in questi giorni l'ultimo romanzo di Philip Roth, Il fantasma esce di scena, dove ci sono pagine bellissime sull'odio degli scrittori giovani e ambiziosi verso quelli anziani e di successo, odio ricambiato con disprezzo degli scrittori affermati. Certo. E quindi si continua certamente su questa linea. Io credo che ci si insulti meno perché c'è una rete di interessi comuni che una volta non c'erano, cioè tutti gli scrittori recensiscono, tutti gli scrittori fanno parte di giurie di premi letterari, più o meno hanno gli stessi editori, quindi non conviene calpestarsi i piedi. C'è un certa, una certa collusione, insomma, no? È una forma di opportunismo, ahimè. Peccato, perché gli insulti fra scrittori, come abbiamo visto, possono essere particolarmente brillanti. Non penso che fra pittori ci si detesti di meno, fra pittori o fra attori, eccetera, ma lo scrittore ha degli strumenti verbali più potenti, si spera e ci si immagina. Ecco, diciamo che si può rompere questo muro di omertà e di collusione con maggiore spirito critico, riscoprendo il gusto anche della stroncatura, ma senza assumere pose gladiatorie inutili, no? Si potrebbe, anche senza insultarsi, semplicemente essere un pochino più critici. Molto bene, grazie a Guerri e alla prossima. Arrivederci. Arrivederci. E a proposito di insulti, un filantropo giapponese, Yoei Sasakawa, il presidente della Nippon Foundation, ha dichiarato che bisognerebbe bandire la parola lebbroso dal nostro vocabolario, anche perché viene usato spesso a sproposito per discriminare e per fare delle esclusioni tra gli uomini. È un termine, insomma, di derisione e di esclusione che offende quelli che sono affetti da questa orribile malattia. Quindi d'ora in poi, se qualcuno cerca di combattere l'ondata xenofoba, non trattatelo come un lebbroso. E adesso ci spostiamo negli Stati Uniti. Sulle colonne della rivista Foreign Policy leggiamo che la energia solare sta attecchendo soprattutto nei paesi poveri come forma alternativa di energia, e attecchisce a tal punto che c'è ormai un mercato nero di pannelli solari rubati. Il fatto che vengano rubati, dicono gli esperti di energie alternative, è un buon segno. E quindi ora in poi, quando sentiremo qualcuno cantare O sole mio, dovremo dire: sei sicuro che sia tuo? Dove l'hai preso? La finestra sul cortile. Si parla tanto in questi tempi, a proposito e a sproposito, di radici cristiane, di laicismo e di laicità. Come e perché è nato il conflitto tra chiese e società secolarizzate? Se ne parla su questo numero di Dissent in un articolo di Andrew Koppelman, che recensisce un libro di Charles Taylor intitolato A Secular Age, pubblicato da Harvard University Press. Charles Taylor è un filosofo politico canadese che ha scritto questo libro, A Secular Age appunto, che vuol dire un'era laica, e che cerca di ricostruire una mappa di come si è nata la frattura tra il mondo religioso e il mondo secolarizzato, e conclude che in realtà sia i laici che i cristiani hanno una discendenza comune nel loro impegno per i diritti umani. Questa conclusione viene attraverso ovviamente una lunga disamina storica che parte dalle credenze primitive dei popoli antichi, che identificavano l'ordine cosmico con gli dèi della natura, e quindi non c'era nessuna distinzione tra immanente e trascendente. Poi dice: nel primo millennio avanti Cristo ci furono tutta una serie di innovatori nel campo del pensiero, da Confucio a Siddhartha, i profeti ebraici, a Socrate, a Platone, che portarono nel mondo la luce dell'etica universale e della salvezza individuale. E questa rivoluzione rivoluzione che poi, secondo Taylor, è stata portata a compimento dal cristianesimo. Dopodiché, scrive ancora Taylor, c'è stata la riforma protestante che ha fatto sì che la vita ordinaria della gente, il lavoro, il gioco, anche il sesso, incominciò a diciamo avere il sopravvento sui significati sacri e diciamo si impose una rivoluzione dell'etica quotidiana in cui l'uomo diventa agente della ragione strumentale, realizza in qualche maniera gli stessi disegni divini proprio attraverso la propria attività nel mondo. Ma secondo Taylor, in realtà poi questa secolarizzazione incomincia a mostrare la corda, a rivelare i suoi limiti, a destare, a suscitare un certo scontento, perché mancano gli slanci, mancano i grandi ideali, c'è una sete di trascendenza che rimane inesaudita da una cultura strettamente laica. E quello che sostiene Taylor è che anche la cultura dei diritti umani non può essere semplicemente iscritto nella natura umana, nei nostri geni, ma richiede qualche cosa di più nobile, di più alto, e quindi chiama in causa la fede, un soprassalto di religiosità. Ma su questi temi abbiamo un ospite che ringraziamo, il professor Rodotà. Eccomi, grazie. Benvenuto alla finestra sul cortile. Stefano Rodotà, ordinario di diritto civile alla Sapienza di Roma e tra l'altro è uno degli autori della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. È appena uscito un suo libro dalla Terza intitolato semplicemente Perché laico. Ecco, professor Rodotà, secondo Taylor il laicismo occidentale ha delle radici cristiane. Sostanzialmente laici e credenti nascono da un humus comune, no? E condividono la sensibilità per i diritti umani. Quindi se fosse vero questo, allora avrebbe ragione Ratzinger che dice che i diritti dell'uomo sono figli del cristianesimo, non dell'illuminismo. Queste ricerche di continuità sono sempre opportune, ci ricordano che siamo figli non soltanto di salti culturali, ma siamo figli anche di un dialogo che va avanti da secoli. E tuttavia ho l'impressione che ci siano delle semplificazioni. Sì. Perché proprio nel mondo occidentale, nel paese in cui viviamo, la riscoperta della individualità, la dignità dell'uomo hanno avuto una declinazione che da un certo momento in poi non era semplicemente quella che veniva dalla grande storia, dalla grande rottura culturale, posso aggiungere politica, del cristianesimo. E nella discussione laica ci sono due momenti che vengono sottolineati. Uno è quello del Rinascimento italiano, certo, la riscoperta dell'individuo, e uno è quello della sua, se così posso dire, formalizzazione, quando la Rivoluzione francese riformula i diritti dell'uomo e del cittadino. Attenzione, questo secondo riferimento è tutt'altro che secondario. Quello al cittadino, e noi ci troviamo di fronte a qualcosa che spezza in qualche modo una storia. Non a caso le reazioni che ci sono state per tutto l'Ottocento, non ancora sopite da parte della Chiesa alla Rivoluzione francese, avevano esattamente come punto polemico di riferimento questa costruzione moderna del cittadino e quindi dell'uomo nel loro rapporto stretto istituito dalla Dichiarazione dei diritti, ma prima ancora dalla Costituzione degli Stati Uniti, per cui c'è un altro modo di guardare a questo tipo di problemi. La continuità meritoriamente la dobbiamo sempre tenere presente, pensiamo, sì, ai lavori di Amartya Sen che proprio in materia di diritti ha cercato di mostrare come non ci sia una distanza incolmabile tra quelle che sono alcune culture asiatiche, l'elaborazione che c'è stata in Occidente, però ho l'impressione che ci sia qualche forzatura. Quanto poi la tesi di Taylor, che ci sia bisogno di un salto di fede, così di un valore superiore, insomma. Di un valore superiore, che è quello che ha anche detto Beckenford, dicendo una libertà autofondata a un certo punto non riesce ad andare oltre se stessa. E quindi anche lì bisogno di un fondamento religioso. Qui vorrei fare due osservazioni. Lei ha ricordato benevolmente il mio libro, che cerca di analizzare non solo questioni generali, ma anche, come dire, la temperie all'interno della quale oggi ci troviamo. È vero, c'è una comune lunga storia intorno ai diritti umani, ma in questo momento, se noi guardiamo non solo alle polemiche italiane, che possono apparire riduttive di una discussione che ha ben altro respiro e quindi figlie più di miserie della politica italiana che non di una grande riflessione, pensiamo alle mosse che sta facendo in questo momento Obama, e alcune di queste che mettono in evidenza diritti fondamentali, come quello per esempio alla maternità responsabile, alle scelte delle donne, sono in questo momento fortemente contrarie all'interpretazione che proprio dei diritti delle persone dà nella sua ufficialità e nella sua teologia la Chiesa Cattolica. Ecco. Non vorrei allora che ci fosse una banalizzazione attraverso la continuità. Senta, ma si parla spesso di laicismo in contrapposto a laicità. Secondo lei esiste anche un fondamentalismo laico? C'è questo tentativo, che è quello al quale io reagisco. La laicità non è la manifestazione di un pensiero di parte. La laicità è divenuta, è stata anche questa, quella che in Francia nell'Ottocento si chiamava la laïcité de combat, il combattimento contro il clericalismo, che aveva però dei fondamenti, e cioè vogliamo la scuola pubblica e non soltanto la scuola tenuta dai religiosi, vogliamo che i registri comunali li tengano appunto i comuni e non le parrocchie, ma oggi siamo molto al di là. Oggi la laicità è una componente essenziale della cittadinanza moderna, è uno dei perni intorno ai quali girano le costituzioni. Ricordiamo che la Corte Costituzionale ha detto che il principio supremo di laicità è uno dei perni del nostro sistema costituzionale. Bene, salutiamo il professor Stefano Rodotà, grazie di essere stato con noi. Grazie. A presto. E ci spostiamo in Germania, dove fa molto discutere il diario di Günter Grass, tenuto durante i giorni della riunificazione tedesca e pubblicato in questi giorni. Tra le altre cose, Günter Grass scrive: «Voglio sputare nella zuppa dei predicatori della domenica». Al premio Nobel per la letteratura tedesco, i tempi e i modi usati per unificare le due metà della Germania non sono mai andati a genio. Fosse stato per lui, le cose sarebbero andate altrimenti rispetto alla sostanziale colonizzazione a danno dell'Est che egli lamenta. «Dacci un taglio, Günther», gli suggerisce però la Frankfurter Allgemeine Zeitung, che delle annose prediche di Grass al riguardo ne ha fin sopra i capelli. Anche le sue tiritere non sono altro che una minestra riscaldata. E per oggi è tutto, si richiude la nostra finestra sul cortile. Ringrazio Daniele Casagrande e Vittoria Mussini in redazione, Pietro Lacorte in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento alla settimana prossima.